Il sabato del villaggio. Buongiorno, eccoci insieme con questa puntata speciale del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è sempre il nostro villaggio globale, ma questo è un sabato molto particolare perché, lo sentite, siamo in onda in esterna, siamo al Festival di Sanremo, in onda a Sanremo anche per una volta nella terza ora del sabato del villaggio, ma dalla prossima settimana ovviamente torna tutto normale, torna anche l'appuntamento con RadioTube. Ma cosa succederà in questa prima ora del sabato del villaggio? L'incontro con uno dei maestri della musica italiana, musica non solo leggera, anzi Mauro Pagani, ma anche Malika Ayane nel nostro sabato. In collegamento con Milano parliamo poi di tecnologie, ancora musica con una nuova idea italiana, ma subito è tempo di bilanci. Beh, c'è poco da dire, sono contento, felice di aver ottenuto questo risultato, però come sempre dico io, insomma, continuiamo con questo ritmo. Certo, si pedala con il sorriso sulle labbra, il mio sorriso a barchetta è diventato quasi uno yacht. Ho provato una sindrome nuova, che è quella del calciatore che tira un rigore, ma sa solo il giorno dopo se ha fatto rete oppure no. Quindi ieri sera ho tirato sto rigore e soltanto questa mattina ho capito che avevamo fatto un bel gol e una bella rete. Il commento che posso fare, visto che insomma esprimiamo soddisfazione ogni giorno, è che lo slogan di quest'anno "Tutti cantano Sanremo", che è stata un'idea di Carlo Conti, adesso si sta traducendo in "Tutti guardano Sanremo", e questa è una cosa che ci fa particolarmente piacere. Concludo ricordando a voi e a Carlo, credo sia un ennesimo motivo di soddisfazione, che la media sta collocando per ora questa edizione del festival tra le più alte in assoluto nella storia del Festival di Sanremo. Fa parte del costume del nostro paese, lo dimostra da 64 anni a questa parte, speriamo lo dimostri anche questo 65esimo anno. È un momento nel quale gli italiani, quelli veri, quelli che ogni mattina si svegliano, vanno a lavorare, arrivano a fine mese con difficoltà, che si impegnano, che portano avanti soprattutto anche la provincia italiana, che è il motore del nostro paese. Me ne sono reso conto ancora di più questi giorni a Sanremo, no? Dove vedi veramente la gente che si muove, che lavora, che si impegna con fatica e con grande energia. Ecco, a quegli italiani lì soprattutto è dedicato il festival, a quegli italiani lì lo apprezzeranno. Non voglio citare di nuovo la frase di un brano di un successo di Ligabue, ma è un po' quel senso lì che continua da 65 anni a questa parte. Com'è andato questo Sanremo? Tutti dicono ascolti boom, cerchiamo di capirne qualcosa di più e lo facciamo con un'esperta che al sabato del villaggio, anche a RadioTube, chiamiamo spesso, Stefania Carini, che potete leggere sempre su Corriere, ma anche su TuStyle, su Rivista Studio, su Link, insomma, e poi la possiamo ascoltare spesso con noi a Radio 24. Buongiorno Stefania. Buongiorno. Stefani, allora, ascolti boom, siamo tra il 49 e il 47% di ieri sera, cosa possiamo dire di questi ascolti di questo Sanremo 2015? Sono ascolti molto importanti, ma sono anche ascolti in linea con l'edizione di Fazio del 2013. Certo, rispetto invece all'edizione del 2014 abbiamo una risalita strepitosa, e questo ci dice alcune cose. Prima di tutto ci dice che il festival tiene. E sì, ci possono essere edizioni sbagliate, come è accaduto a Fazio per una serie di motivi, perché era il secondo anno con più o meno la stessa formula ma appesantita da alcune idee non sempre riuscite. Dobbiamo sottolineare però due cose. Prima di tutto che Carlo Conti è una cosa che nessuno sottolinea in maniera decisiva, è l'uomo degli ascolti, è un uomo che parte dal 27-30%, lo porta avanti per due mesi con il suo bel tale quale show. L'altra cosa importante sono i giovani, è un festival che ha richiamato il pubblico dei giovani perché ci sono i cantanti della loro età, e allora sì, è vero, Da un lato vediamo di nuovo Albano e Romina, ma allo stesso tempo i ragazzi di oggi hanno il loro Sanremo, che fra 10-20 anni ricorderanno il Sanremo di Emma, il Sanremo del DR Jack e così via, e mi sembra una cosa molto importante. Tu dicevi Carlo Conti porta in eredità, sembra un doppio senso, ascolti altissimi, qualcuno già gli dice Conti farà il 2016, a questo punto però, visto che dicevi che il secondo Sanremo a Fazio non ha portato bene, forse a Carlo Conti cosa bisogna augurare, non lo so. È una decisione difficile, ovviamente molti credo spingeranno per un bis, certo col bis devi inventarti sempre qualcosa di nuovo, di diverso, soprattutto manca poi l'effetto sorpresa. È anche vero che non siamo più ai tempi di Baudo, dove il sistema televisivo era diverso e anche, come dire, a ripetere una certa formula non si rischiava. Qua bisogna inventarsi cose differenti. Conti è bravo, è molto bravo a scegliere gli ingredienti giusti, li unisce i puntini in maniera sensata. Ecco, non è proprio l'uomo che ha l'idea particolare, ha una lettura particolare, ha una storia da raccontare. È anche vero che in parte la TV di adesso è così, noi parliamo sempre tanto di X Factor, però a X Factor il conduttore alla fine unisce una bella formula, unisce dei bei puntini. Conti è stato bravo a scegliere gli ingredienti, ecco, forse in alcuni casi quello che può fare di differente per l'anno prossimo è arrivare a un suo stile differente, a una sua forma di racconto nuova, e allora lì il bis potrebbe riuscire. Scusate. Non ti preoccupare. Ed è un perché c'è il dottore di Sanremo, praticamente, che me lo sono scritto, il signor Stefano Ferlito. Dove l'hai scritto? Qui. Sulla mano. Che mi ha dato. Guarda, non so se ha scritto Stefano Ferlito e il cuoricino anche. Ci ha fatto perché. Perché mi ha dato un anestetico che. Funziona. Ma guarda, funziona. Come un anestetico. Un anestetico, sai, di quelli, lo faccio per farti... T'avrà dato un antidolorifico. Un antidolorifico. Chiama che... e rispondi, Arisa. Un anestetico antidolorifico non è la stessa cosa. Andiamo avanti con la presentazione. Va bene, però ve lo consiglio a tutti. Bene. No, il bello è che ha detto anche il nome del dottore. E questo è stato uno dei momenti più divertenti della presenza di Arisa in questo Sanremo 2015. Le vallette le ha valorizzate, non le ha valorizzate? Intanto loro stesse avevano scelto di essere chiamate vallette. Cosa pensi di questo cast che si è creato attorno a sé, Carlo Conti? Ecco, questa è la cosa più strana di Conti, in un certo senso. Perché da un lato lui ha scelto benissimo. Io trovo che l'idea di Arisa e Emma, soprattutto sul palco, sia una buona idea iniziale. Però ecco, poi ci aspettavamo forse una costruzione differente per loro due. Per adesso le abbiamo viste cantare insieme una volta sola ed è stato un bel momento, uno di quei momenti che rimangono nelle teche Rai, e forse, perché no, valeva la pena di costruire di più dei momenti musicali su di loro, di coinvolgerle di più. Invece alla fine il loro ruolo è diventato veramente quello un po' delle presentatrici, poi con qualche battuta, certo, però quando hai due cantanti importanti alla fine per il nostro panorama musicale, forse valeva la pena di costruirci attorno qualcosa di più, magari invitando qualche comico in meno. Comici, abbiamo visto la serata difficile di Alessandro Siani e la sua gaffe col bambino cicciottello, abbiamo visto la comicità di Angelo Pintus, che non è stata proprio accolta con entusiasmo dall'Ariston, e poi Luca e Paolo e Virginia Raffaele. Quando un grande artista passa miglior vita, sei distrutto perché non te l'aspetti. Ma già in televisione cominciano gli omaggi, TG, Vita in diretta e poi Giletti. eppure qui a Sanremo si canta il carrozzone, riesumano una salma ogni due ore. Così, gli vogliono tutti bene. Tu prendi uno di Firenze, lo metti spesso in televisione a dir cazzate. Se le bevono tutti. Tutti, vanno dietro, così, una cosa. Cento, quello che vuoi, ma è quello che è. E per il funerale ci appronta la diretta col commento del telecronista. Ecco, vediamo un lungo applauso. E la moglie che fa l'intervista, che accompagna la bara. Una grande donna dietro al grande artista. Ma fai te tutte le sere? Certo, Sanremo. Ma lo sa la Rai? Eh? Lo sa la Rai? Certo che lo sa la Rai. Quelle tre, qui, sì. le tre grazie. Sì, va bene. Grazie al coro. Ringraziamo il coro. E allora ciao Gabe, ciao Rino Gaetano, ciao Mia Marini, ciao. E anche un grosso ciao a Fabrizio De André. E anche a Coso, quello dei Nomadi, va bene. E allora ciao Iannacci, ciao Ivan Graziani, ciao. Ciao Dalla, o Battisti, fai un po' te. Ciao Dalla, ciao Battisti. Bene, cosa possiamo dire di questi comici sul palco del Teatro Ariston di Sanremo? Sono a dei livelli molto differenti, ma parlano anche a target differenti, e questo forse noi non lo capiamo. A me ha molto colpito questa cosa, che le reazioni che poteva avere il pubblico in sala dell'Aristo nella mia timeline di Twitter. Diciamo che Luca e Paolo e Virginia Raffaele e in parte Rocco Tanica mettevano d'accordo tutte e due, quindi un pubblico magari più esigente e un pubblico più popolare. Siani e Pintus no, parlano un altro linguaggio. Pintus è molto apprezzato tra i giovani, ma in fondo anche i soliti idioti alla fine parlano un altro pubblico. Quindi è evidente che ci sono livelli differenti, perché ci sono livelli di comicità differenti. Luca e Paolo sono stati molto bravi nella prima gag, Virginia Raffaele è stata molto brava, sono a un livello differente, ma è anche vero che appunto Conti è stato bravo a chiamare dei comici capaci di parlare anche ad altri target, certo non magari a un alto livello di scrittura. Forse poi alla fine il comico più interessante di rottura era il Dopo Festival, quello sul web, era alla fine Saverio Raimondo. Ovviamente una comicità che non può stare sul palco dell'Ariston, però alla fine c'era un po' di tutto. Anche qua scegliere tanti ingredienti può premiare, alla fine può voler dire anche però non scegliere sempre. E vi anticipo che Saverio Raimondo sarà con noi in questo sabato del Villaggio speciale da Sanremo. Per concludere, Stefania, ti chiedo un'ultima notazione. Spesso si dice a Sanremo negli anni scorsi, si erano messe tanti ingredienti perché la musica non fa ascolti e va diluita in minuti e minuti di altro tipo di spettacolo. Qui si è cantato tanto, c'erano molte canzoni, soprattutto in alcune serate. Cosa ne pensi? Quindi la musica può fare ancora ascolti oppure no? La cosa più interessante è che va molto bene anche la serata delle cover, perché c'è tanta curiosità e lì è musica pura, è vedere come vecchi successi vengono più o meno reinterpretati in maniera personale. La musica è un buon contenuto, come lo sono altri contenuti provenienti anche da altri ambiti spettacolari che poi finiscono in televisione. Ovviamente dipende dall'impacchettamento, da cosa ne fai, ed è giusto che ci sia un côté spettacolare, che ci siano altri ingredienti che favoriscano la musica, ma perché proprio in questa maniera valorizzi quel contenuto. In fondo X Factor anche, che va bene, ma come vanno bene i talent, amici, sono nuove forme per diffondere la musica, e allora è quello che bisogna fare, inventarsi di anno in anno uno stile nuovo e comunque riuscire a mantenere il festival, che comunque è, lo diciamo da anni, è sempre un carrozzone, però se lo riusciamo, come dire, a reinventare qua e là, anche per un pubblico giovane, come è accaduto quest'anno, e allora la musica può andare avanti anche in TV. Grazie quindi a Stefania Carini, che è stata con noi per questo inizio del Sabato del Villaggio, proprio qui dal Teatro Ariston di Sanremo. Grazie e come sempre ti aspettiamo ancora al Sabato del Villaggio Radio TV. Grazie Stefania. Grazie a voi. Noi ci ritroviamo ancora tra poco. Il Sabato del Villaggio. Torniamo insieme dal Teatro Ariston di Sanremo per questa puntata speciale del Sabato del Villaggio e restiamo in tema di festival per parlare, e non è poco, di canzoni. E lo facciamo con uno dei grandi della musica italiana. Sola, e gli altri ballano, mi piace farmi male, e ricordare la felicità cos'è. Sola, anche prima di dormire, lo vedi fuori piove, e no, non migliora neanche quando ci sei tu. Non cerco di più, è meglio se tu ora vai, capirai che non ci Questa era Nina Zilli, l'avrete riconosciuta sul palco con Nina Zilli a dirigere l'orchestra, il maestro, scusate, prendo un attimo di fiato perché sono sempre emozionata quando devo dire il suo nome, quando devo presentarlo, il maestro Mauro Pagani. Buonasera. Buonasera, grazie dell'accoglienza. Non è Sanremo se io non faccio una chiacchierata a Radio 24 col maestro Pagani. Com'è tornare qui e adesso in questa veste quest'anno? Se tornare qui è sempre molto bello, devo dire l'appuntamento più importante per me, a parte il rivedere amici eccetera, è comunque con l'orchestra, perché si è stabilito negli anni un rapporto molto stretto, sono dei bravissimi professionisti e siccome non capita spesso di avere a disposizione un'orchestra, poi di gente così brava, disponibile, avere delle sessioni di prove eccetera eccetera. Quindi sono proprio momenti che mi godo molto. Poi quest'anno devo dire sono anche avvantaggiato perché non ho tutti gli stress che avevo negli ultimi 2 anni, quindi mi godo il palco, poi me ne vado, lascio gli stress a qualcun altro e passeggio per il lungomare, c'è cioè un sole fantastico. Quindi. Incredibile, quest'anno un brano solo, vabbè, la cover, però rispetto all'anno scorso che quanti brani avevi dovuto imparare con l'orchestra? Sì, l'anno scorso con l'orchestra abbiamo fatto 70-80, una cosa così, e lo so. Quest'anno invece come è stata l'avventura con Nina Zilli, la direzione e la produzione anche del disco? Ma sai, ovviamente avendo prodotto un album intero ha preso alcuni mesi di lavoro, di frequentazione e sai, io ripeto sempre che lavorare con quelli bravi è facile, perché in genere quelli bravi hanno un'identità forte, a volte magari che ha bisogno solo di essere aiutata di essere messa a fuoco, ma c'è molto materiale grezzo su cui lavorare. In realtà nel caso di Nina il materiale era già molto a fuoco, aveva fatto dei provini abbastanza articolati, quindi in realtà si vedeva bene il panorama sonoro. Quindi mi sono divertito. A volte si ha a che fare con artisti nei quali bisogna inventare molto, no? Allora, quando c'è da inventare molto, in fondo è anche più stressante, perché ti devi assumere la responsabilità di, a volte, di imprimere delle svolte magari troppo importanti alla carriera degli artisti. È una responsabilità che a volte non mi piace prendere. Invece in questo caso, quando si tratta solo di aiutare quello che c'è a esprimersi al meglio, lo trovo, in fondo si dice che il lavoro vero del produttore musicale è quello di aiutare gli artisti a amplificare i propri pregi e a difendersi dei propri difetti. Quindi ho bisogno anch'io di un produttore. Anch'io come giornalista avrei bisogno di un produttore, ma non esistono i produttori dei giornalisti. È una figura che però mi sembra che sia sempre meno diffusa. Forse tante cose sono demandate alla promozione televisiva, al talent, invece ci vuole poi qualcuno che faccia sbocciare i talenti e le musicalità, le personalità. Ma dipende un po' da quello che si cerca, nel senso che se si cerca merce, ci sono macchine produttrici di merce ben oliate a disposizione con pochi soldi, Se poi si cerca merce che dura poco, perché deve far posto ad altra merce da mettere sul banco il più presto possibile, c'è pieno di offerta. Il vero problema è che, questo è un problema un po' generalizzato, però è che si fa un po' fatica a trovare anche produttori di business, diciamo, cioè produttori musicali nel senso di discografici, disposti a scommettere, non dico sul lungo termine, che ormai è una prospettiva a noi sconosciuta, ma almeno sul medio termine. Così come dal nostro sistema economico si dice che ormai più nessuno fa l'economista e tutti fanno i finanzieri, nel senso che siamo legati a triplo filo al rendiconto trimestrale, per come vanno i chiari di luna della discografia, questi poveretti sono legati al rendiconto mensile, se per due mesi il rendiconto va male volano delle poltrone, dei posti di lavoro, e allora è ovvio che o si trovano degli imprenditori disposti a rischiare in prima persona e a scommettere sul lungo termine, e allora in questo caso hai tempo di costruire, individuare talenti che sono ancora acerbi ma che ci sono, e avere il tempo di mettere mattone per mattone e costruirli e ritrovarsi poi però artisti che rimangono per anni, decenni, cosa che succedeva una volta. Adesso il sistema è costruito per creare, consumare e bruciare, in fondo è una macchina che si nutre di carne umana. Accidenti, però è vero. Sono curiosa di sapere se il maestro Pagani ha sentito altri brani di Sanremo oltre a quello di Nina, di quello di cui si è occupato lei, e se ha sentito qualcosa che le è piaciuto. Ma ho trovato alcune cose dei giovani belle, non ho ancora sentito tutti i giovani, stasera mi riservo di sentire gli altri quattro, però anche la ragazza che è stata eliminata ieri sera mi piaceva molto, purtroppo un'amnesia perché sono anziana, non riesco a ricordarmi. La Shanti. Esatto, la sono ricordata sul filo di lana. E poi mi piace molto il pezzo di Malika Yan, e poi in realtà ho trovato qua e là parecchi lampi interessanti. Se mi chiedi se ho sentito un pezzo che mi ha folgorato, ahimè non è successo, ma forse ero distratto. Ci vuole un po' di tempo, ma perché a volte io decido il mio personale Sanremo, chi lo vince l'anno dopo, perché le canzoni devono decantare per un po' di tempo. Sì. Succede così? Sì, no, poi in fondo benedette le canzoni che hanno bisogno di tempo, vuol dire che hanno almeno un piano narrativo, un po' di mistero che va scoperto. Che va scoperto strada facendo. In genere il mistero è segno di fascino, il fascino è costruito sul mistero, no? Grazie mille, grazie maestro Pagani. Grazie, buona giornata. L'abbiamo citata con il maestro Mauro Pagani, l'abbiamo incontrata poco fa, la splendida Malika Yan. Se lo vuoi, rimani. C'è molto da dire che non sia già detto. Sanremo è una cosa importante che io rispetto tantissimo, e appunto penso che ogni situazione, per essere preservata nel migliore dei modi, vada anche profondamente rispettata. Contemporaneamente io ho fatto un disco che alla fine è uscito bellissimo e anche facilmente fruibile da molti, no? Cioè, però il rischio era che facessi una cosa estremamente di nicchia. L'azienda che investe sui miei dischi è l'ultima grande indipendente che se la batte con le multinazionali, e quindi considerare di fare un brano nella manifestazione più importante della televisione italiana, ormai l'unica legata alla musica, credo che sia anche, non dico un atto doveroso perché sembra una roba, una scelta calcolata, ma invece non lo è affatto, credo che sia un passaggio molto importante anche per dare più visibilità a un lavoro che è costato fatica e risorse, appunto, da parte della famosa piccola impresa di cui parliamo sempre, sentiamo parlare continuamente. Vieni a rappresentata in, questo, in questa manifestazione da un pezzo sentimentale, una ballad, anche con una storia d'amore un po' trasgressiva, si può dire. Vi siete divertiti, tu e Pacifico, a inventarvi qualcosa, un'immaginazione? È la stanza immaginaria, capisci? Io lui dentro una cucina che guarda su un appartamento in affitto. No, non abbiamo visto niente di eclatante, però abbiamo... abbiamo pensato di raccontare il presente, che è questo meraviglioso momento così sottovalutato a volte. E quindi abbiamo provato a immaginare due persone che hanno solo questo nella loro vita e che quindi analizzano il fatto di avere solo quello. E basta, analizzano quello che hanno e quello che non hanno, senza prendere una posizione diversa. E la cosa interessante è che chiunque l'ascolti invece tende a riflettere le parti di testo che possono più riguardare il suo stato. Magari quelli che, hanno, cioè, che sono amanti clandestini vedono una cosa, quelli che hanno il matrimonio in crisi ne vedono un'altra, e io credo che questa sia una cosa molto potente per una canzone. Tua figlia adesso grande si renderà conto anche lei, bello. Ma allora, lei la prima volta che io, cioè, che ha avuto la sensazione di che cosa volesse dire avere la mamma a Sanremo era all'asilo e i suoi compagni erano: ma tua mamma non ha vinto, tipo, no? Quindi non lo sa benissimo. Che a volte io penso che questo lavoro sia anche un po' una rottura di scatole per lei, nel senso che, cioè, comunque avere il peso di mamma, diciamo che questa volta, a parte che finisce tardissimo e lei a scuola, quindi, cioè, non ci sono deroghe sulle regole fondamentali, e credo che questa volta più delle altre, proprio perché cresce e il senso del dovere con la scuola inizia a essere, no, una componente importante nella sua vita, capirà che non è un sollazzo e basta fare la cantante. Che brava. Ti chiedo solo un'ultima cosa: che cosa speri di portarti a casa da questa esperienza? Che cosa vorresti mettere in valigia per il ritorno? Ma io spero di divertirmi tanto, proprio di godermela, e nell'aria c'è questa sensazione, devo dire, rispetto ad altre volte. E poi spero che succeda semplicemente quello che è sempre capitato, che un pochino più di gente rispetto al disco prima si affezioni e decida di fare un pezzo di strada con me, che duri quanto duri, ma che si affezioni e mi renda partecipe della propria vita. Adesso è qui, nostalgico presente. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con questa puntata speciale del Sabato del Villaggio, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, musica, TV, serie TV, cinema, ma anche libri, consumi. Siamo a Sanremo per l'appuntamento di oggi, un appuntamento speciale, ma come sempre a quest'ora ci colleghiamo con Milano per parlare di tecnologie con il nostro Enrico Pagliarini. Buongiorno da Sanremo, Enrico. Eccoci qua, Marta, ciao, buon pomeriggio a tutti. Mi dispiace che tu non abbia comprato i biglietti per il festival anche per me, e quindi io sono costretto a rimanere qui nello studio. Da sola, anche quest'anno da sola, ma l'anno prossimo se vuoi ti porto. Esatto, facciamo un team per Sanremo, così imparo qualche retroscena che poi tu normalmente mi racconti del festival. Anche perché dal punto di vista tecnologico ormai parliamo tantissimo di musica. Sì, infatti io volevo questa settimana riproporre uno dei temi che a noi piacciono, perché insomma di musica parliamo abbastanza spesso. Devo dire che ci sono state negli ultimi anni poche novità tecnologiche, perché da molto tempo parliamo dello streaming, questo grande fenomeno, però lo commentiamo perché ci sono stati degli sviluppi negli ultimi tempi, ma diciamo, il fenomeno streaming lo conosciamo già da un po' di tempo. Allora, in realtà la novità c'è, l'avevamo un po' anticipata, perché sappiamo che nel mondo dello streaming, quindi della musica che si trasmette via internet, che si può ascoltare via internet, spesso on demand, quindi uno sceglie la propria canzone su molti siti internet, su molti servizi che ci sono anche nel nostro paese, anche in Italia. Allora, dicevo, la novità che era nell'aria sta arrivando anche in Italia, e stiamo parlando di un salto di qualità, e non sto parlando di qualità artistica, quella la lasciamo decidere ai nostri ascoltatori, Stiamo parlando di qualità audio. Fino ad oggi il punto di riferimento è sempre stato, ma di fatto lo è ancora, il compact disc, e i puristi erano un po' schifati rispetto di fronte allo streaming. Allora, da questa settimana, ma è soprattutto un segnale del mercato che sta cambiando, Deezer, che è uno dei due grossi player della musica, parliamo spesso di Spotify, parliamo spesso di Deezer. Allora, Deezer questa settimana ha lanciato anche nel nostro paese un servizio che si chiama Deezer Elite, che è un servizio di streaming in qualità, direbbero gli esperti, lossless, cioè senza perdita. Di fatto stiamo parlando di una qualità audio molto superiore rispetto a quella a cui siamo abituati con i servizi di streaming, e alcuni potrebbero dire vabbè, però me ne accorgo poco. No, in realtà se uno ascolta con delle buone cuffie o un buon impianto la differenza si sente. Per il momento questo servizio viene lanciato anche nel nostro paese solo per gli abbonati annuali che ascoltano Deezer attraverso un dispositivo Sonos. Sonos è una marca molto famosa di diffusori audio, quindi sono delle casse audio che si collegano in wifi all'interno della casa, che sono abilitate anche a trasmettere il servizio Deezer. Quindi per il momento questa è un'offerta riservata a questo tipo di clienti un po' più esigenti, però è un segnale del mercato che sta cambiando. Ricordo agli ascoltatori che forse il primo che ha lanciato l'idea di offrire un servizio di alta qualità senza perdita è stato Neil Young, che dopo aver progettato, annunciato più volte il, non so se è famoso per tutti, comunque famoso tra gli addetti ai lavori, Pono Music, quest'anno lo ha lanciato effettivamente. Pono Music è il servizio più noto tra quelli senza perdita di qualità, quindi con una qualità potremmo dire simile al compact disc, uguale al compact disc, una ottima qualità anche in streaming, cosa che fino a poco tempo fa non esisteva, Marta. Beh, insomma, noi abbiamo spesso parlato delle casse di buona qualità, degli auricolari, delle cuffie di buona qualità. Se abbiamo una musica di qualità inferiore, di qualità ridotta, abbiamo fatto un discorso inutile. Quindi è giusto che anche quello che noi utilizziamo come musica liquida, adesso che mi hai insegnato questo termine non lo abbandono più, insomma, che dal rubinetto sgorghi musica buona. Esattamente, se facciamo il paragone con l'acqua, insomma, diciamo che adesso la qualità dell'acqua sta aumentando. Allora, questa settimana, visto che vogliamo parlare di musica, vorrei presentarti Max Ciociola, lo presentiamo ai nostri ascoltatori, che è l'inventore di Music's Match. Max, bentornato, benvenuto a Radio 24, ciao, buon pomeriggio. Ciao Enrico, ciao Marta, ciao a tutti. Beh, finalmente lo conosco perché mi parlano molto spesso di lui, quindi finalmente lo conosco anche se a distanza da Sanremo. Esatto, bene. Sono un grande sostenitore. Allora, Music's Match offre un servizio, allora, negli ultimi anni il servizio è l'applicazione, perché esiste su web, ma esiste soprattutto come applicazione per smartphone, offre un servizio che è abbastanza raro, perché diciamo la musica la si può ascoltare attraverso tante modalità, in streaming e on demand con tanti servizi. Music's Match fa un po' di più e fa una cosa molto utile e molto divertente. Allora, Max, raccontaci un po' che cosa fa Music Match. Ma visto che avete parlato di musica ascoltata, Music Match la fa visualizzare la musica, nel senso che è il più grande database al mondo di testi di canzoni, anche dette lyrics, in più di 38 lingue, quindi copriamo un catalogo, voglio dire, enorme, con più di 9 milioni di testi, e aiutiamo l'utente quando sta ascoltando la musica, e quindi su Android piuttosto che iOS, o addirittura è un'applicazione all'interno di Spotify, a visualizzare i testi di canzone in maniera sincronizzata, mentre sincronizzata con la musica che va. Quindi non un vero e proprio karaoke, perché l'effetto è diverso, però diciamo che l'utilizzo è quello di leggere i testi mentre la musica, mentre stai ascoltando la musica. È un servizio che oggi ha più di 30 milioni di utenti nel mondo, dopo 5 anni, considerando che, voglio dire, la ricerca di testi di canzone, immagino chiunque di voi l'abbia mai fatto, chi ci ascolta, è qualcosa di molto molto popolare, siamo diventati di fatto la destinazione, diciamo, per questo utilizzo nel mondo della musica. Allora, diciamo che è un servizio innanzitutto made in Italy, la cosa ci fa molto piacere, sono un grande sostenitore di Max e di Music's Match. è gratuito, giusto? È assolutamente gratuito, per ora rimarrà gratuito, non abbiamo idea di metterlo a pagamento, tuttavia c'è della pubblicità che l'utente vede, che è un po' il modo di sostenerci. Certo. E abbiamo visto che c'è da dire cose più importanti. Music Match è praticamente la prima piattaforma che ha legalizzato i testi di canzone, quindi questo è da dirlo, cioè abbiamo accordi con più di 8.000 editori musicali, perché in questo caso noi lavoriamo con i music publisher, gli editori e non le case discografiche, quindi tuteliamo chi ha scritto i testi, che c'è da dirlo, visto che parliamo di Sanremo, si parla sempre di chi dell'artista che c'è in TV, ma non si parla quasi mai di chi ha scritto i testi poi. Noi in questo caso tuteliamo e paghiamo questi soggetti. Esattamente, sì, perché nel mercato, magari tu Marta questo aspetto lo conosci molto meglio di me, di sicuro, perché nel settore, non so se chiamarlo settore o comunque, su internet, nel mondo dei testi c'è un sacco di pirateria, e quindi diciamo tuteliamo in questo modo anche chi sta dietro le quinte, che fa i testi, che spesso è il vero motore della musica, perché è vero, ci sono dei bravissimi cantanti, ma se non ci sono dei bei testi, non so se a Sanremo hai notato questa a volte dicotomia, cioè tra bei testi e cattivo cantante, oppure bravo cantante e cattivo testo, e quando ci va bene le due cose insieme. Non so se hai ascoltato qualche canzone, visto che tu non sei proprio un appassionatissimo, tanto. Te le farò ascoltare quando torno. Quasi tutte canzoni d'amore quest'anno, quasi tutti i testi parlavano d'amore. Gli anni scorsi si parlava più di attualità, di crisi. No, quest'anno si parla tanto d'amore qui a Sanremo, quindi te le farò ascoltare la prossima settimana. Però ci sono anche dei testi molto belli. E la cosa che dicevi della pirateria stupisce, perché spesso non si sa nemmeno che non è legale mettere online dei testi, quindi è giusto che ci sia un servizio legale, ma è anche giusto far sapere cosa è legale e cosa no. Senti Max, a proposito di Sanremo, ci sono già i testi di Sanremo su Music Match? Assolutamente sì, e penso che c'erano già prima che cominciasse Sanremo, perché in accordo con gli editori italiani abbiamo, peraltro, e questo va detto, gli editori italiani sono sempre molto attivi, in particolare la FEM, la Federazione Editori Musicali, abbiamo aiutato loro a combattere il fenomeno della pirateria in Italia, dando praticamente la possibilità a Music Match di pubblicarli sostanzialmente in anteprima, in maniera tale da controllare. Quindi Music Match non si è fatto solo, diciamo, distributore di questi, ma ha anche segnalato chi lo fa illegalmente, quindi ci sono già e si cominciano a vedere i primi risultati, peraltro, perché poi Music Match, sulla base di quello che l'utilizzo che la gente fa, potrebbe funzionare un po' come una sorta di prediction, cioè prevedere chi possa essere quello perlomeno adesso più visti come testi. Ah, certo. Max, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ricordiamo ai nostri ascoltatori il nome di questa applicazione, di questo servizio, che è Musix, quindi è scritto Musix con la X finale, uno cercando già Musix, poi il match lo può aggiungere, ma già così si trova facilmente, giusto? Assolutamente sì. Marta, buon Eccoci divertimento qui. Allora. Eh sì, guarda, la prossima settimana però torno, quindi il Sabato del Villaggio sarà come al solito 2 ore di Sabato del Villaggio più un'ora di RadioTube e da Milano, quindi aspettami perché torno in studio accanto a te. E noi invece continuiamo con il nostro sabato qui dal Teatro Ariston di Sanremo, perché ci sono ancora molti argomenti nel nostro Sabato del Villaggio. Grazie Enrico. Appuntamento alla prossima settimana, ciao a tutti. Il Sabato del Villaggio. E ritorniamo insieme qui da Sanremo con questo appuntamento speciale del Sabato del Villaggio, ma non possiamo non parlare di cinema. Chissà in quanti questa sera non vogliono guardare la serata finale del Festival di Sanremo, oppure anche domani vogliono andare a vedere cosa c'è di nuovo in sala. E noi ovviamente ci colleghiamo con Milano con il nostro super esperto Franco D'Assisti. Buonasera da Sanremo, Franco. Ciao Marta, un saluto a te e a tutti quelli che lì, voglio dire, fremono per queste ultime ore del Festival. Sono stati in tanti quest'anno, però in tanti anche a correre al cinema a vedere il caso, dobbiamo dirlo, il caso, dai. L'inevitabile, a vedere l'inevitabile, diciamo così, il caso di questa stagione. Sì, tra l'altro è un bel derby, devo dire, fra la serata finale di Sanremo, che farà i soliti milioni di persone che sappiamo, ma anche un film come 50 sfumature di grigio, che è partito fortissimo. Il primo giorno di programmazione, pensa, giovedì, ha raccolto 1.700.000 euro solo giovedì, che non è un giorno di vocazione cinematografica. Le cose sono cresciute venerdì sera, sicuramente oggi sarà un'esplosione e domani anche. Io penso che a fine weekend si parlerà molto dell'incasso di questo film, di cui parleremo ovviamente alla Rosa Purpurea alle 18 qui su Radio 24. Abbiamo provato ad approcciarlo in maniera, come dire, scientifica, professionale, non facendoci trascinare da quelle che sono le tare che si porta dietro a livello letterario, eccetera. Film che forse migliora leggermente, diciamo, rispetto allo spessore letterario del libro, ma che ha anche qui una serie di magagne, di convicità involontarie, eccetera, che però sono state tranquillamente, serenamente sopportate dal pubblico che abbiamo anche intervistato all'uscita della sala. Tutti hanno detto sì, magari non è proprio bellissimo, anzi magari anche qualcuno ha detto una ata, ma lo sapevamo, era così, ce l'aspettavamo, lo volevamo e va bene, andremo a vedere anche il secondo e il terzo. Cioè ti dà proprio la dimensione di una sorta di brand che farà sfacelli indipendentemente dalla qualità. Vabbè, insomma, un po' come i libri, la trilogia, erano da leggere perché uno comunque li avrebbe letti, e il film lo andremo a vedere. Siamo quasi in clima Oscar, quasi in ambiente Oscar. C'è qualcosa da andare a vedere, Franco? Eh sì, perché continua appunto l'uscita in Italia dei film che vedremo nella notte del 22 contendersi gli Oscar. Sono tre questa settimana, si parte da Selma, film molto impegnato, molto, molto di coscienza civile, che racconta un episodio chiave della lotta degli afroamericani negli Stati Uniti, la marcia appunto di Selma nell'Alabama del 1965, capitanata, cappeggiata da Martin Luther King. Film molto denso, come deve essere, forse un filino meno emozionato rispetto a quello che magari potrebbe aspettarsi lo spettatore, però molto informato, molto importante come documento. Poi c'è, sempre per stare alle lotte di oggi, dopo aver raccontato quelle di ieri, c'è Timbuktu del regista maliano di origini maliane ma ormai radicato in Francia, Sissoko, uno dei più grandi registi africani viventi, ed è una storia assolutamente, drammaticamente attuale, quella di un piccolo villaggio che viene vessato dai jihadisti che lo conquistano e lo dominano, e quindi ci sono i due Islam che lottano, ed è quello che poi vediamo quotidianamente anche dalle cronache dei giornali. Un film molto bello, molto raffinato sotto il profilo poetico. Non è così magari raffinato, ma è molto potente, davvero il film della settimana secondo me, Whiplash, film che racconta il rapporto fra un ragazzo, uno studente di batteria di una prestigiosa scuola di musica di New York, e il suo professore, che sembra tirato fuori dritto dritto da Full Metal Jacket. E beh, qui ci sono 5 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film e l'attore non protagonista, un film che tra la musica jazz e la potenza della sceneggiatura e dei dialoghi veramente prende lo spettatore, lo rapisce al primo minuto, lo riconsegna alla fine. Davvero un gran film. Una notazione invece per le famiglie: cosa possiamo andare a vedere questo fine settimana? Senza dubbio Shaun, Vita da pecora, serie premiatissima in TV che tutti i genitori si trovano a incrociare durante i pomeriggi dei propri figli, ma che ha un côté di ironia british, di artigianalità dovuta al fatto che è girata in stop motion, quindi a passo uno con la plastilina, eccetera, la produzione, la Aardman, quella di Wallace & Gromit, per ricordarsi. Insomma, ecco, è un film che davvero accontenta tutta la famiglia, molto molto divertente, con certi momenti addirittura esilaranti. Io lo consiglio vivamente. Quindi l'appuntamento con te, Franco, è dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea. Qualche anticipazione? Sì, ci risentiremo, sviscereremo questi temi. Avremo anche ospite Costanza Quatriglio, che ha firmato un bellissimo documentario che si intitola Triangle e che mette di fronte i fatti del 1911 a New York. Ricorderete l'incendio nella fabbrica tessile, da cui poi nacque anche la festa dell'8 marzo, e quello che è capitato esattamente un secolo dopo, nel 2011, a Barletta, nel nostro sud, con il crollo della palazzina dove morirono tantissime operaie giovanissime proprio di una fabbrica tessile. Ci interrogheremo sul tema, se il tempo, se il secolo ha portato qualche cambiamento, se siamo ancora al punto di partenza, con Costanza Quatriglio. Quindi vi aspetto tutti alle 18. Grazie, grazie a Franco D'Assisi. Noi torniamo a parlare di musica, ma parliamo anche di colonne sonore qui da Sanremo. Grazie Franco. Ciao Marta, un saluto. Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai, separarci un giorno. L'autore di una delle canzoni più vendute della storia della musica leggera italiana, Io che non vivo, Pino Donaggio. Però le chiedo che, qual è il suo rapporto con questa canzone così importante che adesso viene celebrata, ma è solo una delle tante che lei ha scritto. Sì, è una delle tante, però è quella che ha fatto il giro del mondo, perché quando l'ho cantata qui nel 65 c'era Dusty Springfield e lei aveva altre due canzoni eliminate. Allora mi ha raccontato questo dopo 20 anni a New York e mi ha detto che la sera dopo lei mi ha sentito cantare in sala e si è commossa, si è emozionata. Allora ha cercato il disco prima di partire per l'Inghilterra, per Londra, e l'ha trovato fortunatamente per me. E dopo un anno lei ha fatto fare un testo in inglese, credo che l'abbia fatta Vic Victman, che poi è diventata sua manager. E dopo un anno mi hanno chiamato solo per farmi vedere il giornale, il mio editore Billboard, che portava You Don't Have to Say You Love Me, a 3 week, 1 million record. E lì ho capito che forse la canzone era partita. Poi lei è andata prima in Australia, seconda in America, Elvis l'ha sentita da lei, l'ha incisa Elvis Presley, e quindi sono tutte emozioni continue con questa canzone. Poi mi sono calmato perché l'incidono tutti, Tom Jones e tutti gli altri. Brenda Lee, che era una cantante del mio periodo, saranno 300 le incisioni, forse di più. E quindi fino a questo ultimo della Nannini che c'è dentro lo stesso Io che non vivo. Che cosa le dà adesso comporre colonne sonore? Beh, a parte la soddisfazione che ho lo stesso, la musica in giro per il mondo. Perché ho fatto 7 film con Brian De Palma, 2 con Joe Dante e altri americani, anche giovani come David Schmoller. E quei film là girano sempre, cioè io sono nella mia casa, magari in Inghilterra stanno guardando Don Lucrao o in Germania guardano Das to Kill. Cioè la mia musica è quello che mi è piaciuto del cinema, che la mia musica camminava da sola, andava in giro per il mondo. Una volta sono andato a Parigi in vacanza con la mia famiglia, in 5 cinema di Parigi c'era un film mio, non lo stesso, erano 5 film diversi. Quindi questo è quello che dà, e senza essere io là che canto, che faccio, che suono, come era per la canzone, insomma. Il sabato del villaggio. Buongiorno, rieccoci insieme con questa puntata speciale del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale e questa è sempre la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, ma questo è un sabato molto particolare perché siamo in onda dal Festival di Sanremo, in onda da Sanremo anche per una volta nella terza ora del sabato del villaggio, ma dalla prossima settimana torna tutto normale, torniamo in Milano, torna il nostro appuntamento con RadioTube. Ma cosa succederà in questa seconda ora del sabato del villaggio? In collegamento con Milano, i nostri consueti appuntamenti legati ai libri e alle nuove tendenze, ve lo anticipo, si parlerà molto di San Valentino. E poi ancora gli incontri con gli interpreti delle canzoni più belle di questo festival, ma subito un amico di Radio 24. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Siamo accanto alla sala stampa del Teatro Ariston di Sanremo, con una voce che già la sentite accanto a me, è ormai una voce molto nota. È una voce di famiglia ormai. Ormai è una voce di famiglia quella di Enrico Ruggeri. Ciao Enrico. Ciao, ciao a tutti. Ti abbiamo accolto con la sigla del Falco e il Gabbiano, ma oggi non dobbiamo parlare di falchi e di gabbiani, ma di tre signori, perché questa sera tu torni sul palco del Teatro Ariston per presentare un brano nuovo che peraltro è dedicato a tre signori molto particolari, molto importanti. Sì, in realtà è un brano che parla di artisti e che parla di, diciamo, di paradiso, insomma, per intenderci, cioè, comunque ognuno avrà una sua opinione, no, sui luoghi della trascendenza. I tre personaggi in questione sono Gaber, Iannacci, e i due stanno aspettando un terzo che è arrivato, che è Faletti. Il tutto senza nessuna connotazione, come dire, lugubre. È una canzone allegra nella quale i tre scherzano, giocano, usano la loro mente, ci prendono in giro, si prendono in giro, e quindi, come dire, continuano quella comunanza di intelligenze, di sarcasmo e di affetti che ha caratterizzato le loro vite. Intanto qua l'atmosfera si sta scaldando perché mancano poche ore non solo al fatto che tu stai per salire sul palco dell'Ariston, ma anche alla finale. Non posso non chiederti cosa hai pensato, visto che tu con questo brano omaggerai tre artisti scomparsi della satira che hanno fatto Luca e Paolo, perché insomma loro stessi hanno preso un po' in giro in realtà la televisione, non tanto. Beh sì, sai, sono cose che prestano il fianco. Io stesso ho scritto più volte, insomma, che l'indole umana è tale per cui quando uno muore viene circondato da un affetto, era il migliore di tutti, era un grande artista, i dischi tornano in classifica, eccetera eccetera. Questa, insomma, è un po' nella natura umana. Diciamo che secondo me il loro passaggio ha avuto momenti migliori, quello non è stato il momento più elegante, però è giusto che loro siano dissacranti, e lo sono stati anche in quel momento. Perché tu l'hai seguito il festival, lo so, perché ho visto su Twitter che commentavi e seguivi. Cosa ti è piaciuto di questo festival? Si può dire, perché tanto tu non sei in gara, si può. Beh, diciamo, non mi addentro sui cantanti, mi è sembrato un festival di discreto livello, ma non so se ci saranno le canzoni che si ricorderanno tra 30 anni, ma quello non è colpa di chi scrive le canzoni, è colpa dei tempi che viviamo. La conduzione di Conti è stata giustamente restaurativa, è un po' il festival del congresso di Vienna, no? Cioè, è stata, dopo i due anni giacobini, si è tornati su Rai 1 e con grandi risultati, con un grande spettacolo, con grande cura e con un conduttore, insomma, che si candida a essere il baudo dei prossimi anni. Tu parteciperesti a un eventuale Conti 2, Conti bis nel 2016? Ma devo dire che questo fatto che quest'anno canto come ospite mi ha un po' fatto pensare che non so se tornerei in gara, perché mi sento molto meglio nel. Ah, non è male, sì. Però, insomma, primo, mai dire mai. Secondo, mai sputare nel piatto in cui si è mangiato, e quindi non lo so. Che impressione ti fa tornare qui, in questo posto fisico? Perché tu questi luoghi li hai frequentati a lungo. Io ho visto cambiare l'Italia da qua, da anni di enfasi, ho visto cose che voi umani diceva. Ho visto gli Spandau Ballet, ho visto i Duran Duran. Ho visto quelli veri, non quelli che sono tornati, cioè quelli dei giovani. Sono scappato tra i cordoni della polizia con Morandi e Tozzi. oggi bene o male la rete in qualche modo avvicina le distanze, per cui non esistono più i divi, forse anche meglio, gli artisti si prendono le loro responsabilità, scrivono, twittano, retweetano, e danno opinioni, quindi in qualche modo questo li avvicina alla gente e magari li rende meno, cioè, oggi sappiamo cosa mangia a colazione Madonna e come si veste Lady Gaga nel pomeriggio, una volta non era così, tutto sommato è un aspetto, come dire, divertente del rapporto che tutti noi abbiamo con la popolarità. Tu qui sei stato nelle vesti di cantante, di vincitore, solo di autore, sì. Qual è il ruolo più divertente, a parte quello di ospite che hai sperimentato oggi? Lo sto vivendo da un paio di giorni, insomma, e che in qualche modo è bello, è elegante, non impegna. Non direbbe, chic e non impegna. Direbbe a risa, chic e non impegna. Ma, però devo dire, insomma, che io l'ho sempre vissuta con molta curiosità, con molto divertimento, insomma, non ho mai fatto una malattia, ho fatto festival, ho vinto premi, sono arrivato ultimo, al lunedì partiva una tournée e quindi l'ho sempre vissuta con grande serenità, devo dire. Un'ultima cosa, tre signori questa sera sul palco dell'Ariston, da domani però sarà un singolo su iTunes, sarà sulle piattaforme digitali. Su iTunes, come le norme suggeriscono, e poi vado avanti, sto finendo un album come tutti i cantanti che si rispettino. E Radio 24 troppo, permettendo. Radio 24 permettendo, ma è un ritardo ai miei lavori che mi fa piacere perché mi sto divertendo molto e per una volta scopro che la qualità e i risultati possono andare a braccetto. Questo non sempre accade in televisione, dove francamente le cose migliori che ho fatto le ho fatte per canali tipo History Channel, Rai Premium. Ho fatto delle cose molto belle in televisione, in reti da percentuali da 0, e cose un pochino meno belle quando magari facevo il 16%. Mentre in radio la cosa sta andando molto bene e si coniuga con la qualità. Questo fa probabilmente anche nello stile di Radio 24, e io come i calciatori quando arrivano in una squadra dico che io sono fin da bambino ero tifoso di Radio 24. Io non posso dire niente perché sono parte in causa, allora. No, ma sai, i calciatori quando arrivano alla certo, Juve dicono ero, magari fatto. Arrivano dal Ghana e dicono ero juventino fino a quando stavo nel Ghana, ecco, io ero sempre tifoso di Radio 24. Allora, noi ci ritroviamo tra poco con Sabato il Villaggio, invece con te lunedì, e poi lunedì. Questa sera assisteremo a. Questa sera, mi raccomando, non vi devo neanche dire votatemi, guardate e divertitevi. Grazie Enrico. Ciao. Il Sabato del Villaggio. Torniamo insieme dal Teatro Ariston di Sanremo per questa puntata speciale del Sabato del Villaggio. Lo sapete che Remo non è un santo, cioè in realtà Sanremo pare che derivi da San Romolo, perché il patrono è proprio Romolo. Che invece ci sia un santo da festeggiare oggi lo sanno tutti, perché oggi è San Valentino, e chissà se siamo romantici nei libri di cui parliamo oggi con la nostra super esperta in collegamento da Milano. Buon pomeriggio Alessandra Tedesco. Ma quante ne sa la Marta Cagnola, Sanremo, San Valentino, cioè veramente io mi alzo e me ne vado a questo punto. Alessandra, entriamo un po' in atmosfera, io non lo so se atmosfera San Valentino, ma entrerei nell'atmosfera del libro di cui ci devi parlare per forza questo fine settimana, eccola qua. You know I can't stand it, you're running around, you know better daddy, I can't stand it. You put me down, oh, oh, I put a spell on you. Because you're mine, oh. Questa musica, la musica di questo trailer, l'abbiamo sentita in tutte le salse, non ne possiamo più, finalmente è uscito al cinema, ne parleremo inevitabilmente anche con Franco D'Assisti, 50 sfumature di grigio. Alessandra, non ti chiedo se ci consigli di leggerlo, perché so che tu non sei una grande fan di questo libro, però raccontaci un po' cosa dobbiamo sapere di 50 sfumature di grigio, il libro. Allora, hai detto bene, Marta, io non sono una fan di questa trilogia, quindi non fa parte dei libri che consiglio, ma sicuramente i libri di cui si parla in questo momento c'è la trilogia delle 50 sfumature di grigio. Ti posso dire, allora, innanzitutto ricordiamo le 50 sfumature di grigio, di nero e di rosso, sono tre volumi diversi. Naturalmente in occasione del film il libro è subito tornato in classifica in un'edizione speciale sempre pubblicato dalla Mondadori. Ormai possiamo dire che sta diventando proprio un long seller. In Italia ha venduto oltre 5 milioni e mezzo di copie, nel mondo oltre 100 milioni. Però Marta, ti posso dire che questo è uno dei libri più comprati ma meno dichiarati. Cioè, se tu dici hai letto 50 sfumature di grigio, molte persone ti dicono no, giammai, io non lo leggerei, oppure magari se lo ricoprono con la carta per non far vedere all'epoca, quando era uscito in estate sulla spiaggia, che lo stavano leggendo. Però diciamo, il merito delle 50 sfumature di grigio è che hanno sicuramente sdoganato un genere, hanno invece imbrigliato la parola sfumature, che ormai non possiamo più usare in nessun modo perché si pensa subito naturalmente al sesso estremo. E la cosa anche curiosa è che la scrittrice inglese E.L. James, questo è uno pseudonimo, inizialmente l'aveva pubblicato autonomamente, una sorta di self-publishing, l'aveva pubblicato prima sul suo sito sotto forma di racconti più o meno erotici, poi ne era nato un ebook e a richiesta poteva essere stampato, poi un grande editore se n'è accorto e naturalmente se l'è subito accaparrato e l'ha fatto diventare il fenomeno mondiale che ormai tutti conosciamo. Beh, insomma, mi ricorda un po' la storia di Harry Potter, o in Italia la storia di Moccia che circolava in fotocopia. Succede. Alessandra, rimarrei in tema di amore. So che hai preparato un'altra musica d'atmosfera per questo San Valentino, per questi libri amorosi. Sentiamo un po'. Vabbè, addirittura Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Je t'aime moi non plus, proprio stiamo puntando altissimo. Alessandra, come mai questa scelta? Siamo sempre in tema San Valentino, allora. Un classicone, Marta, un classicone. Io detesto tutte le date, come dire, stereotipate, quindi tutti mi chiedono, ah, ma un libro per San Valentino? No, non vi consiglierò nessuno dei tanti libri sull'amore, sugli amoretti, così, che stanno uscendo in questo periodo di San Valentino, perché voglio parlarvi di un vero libro sull'amore. E allora ho scelto una canzone importante, per questo, come dire, un classico. E secondo me uno dei libri più belli sull'amore che siano stati scritti negli ultimi anni è una specie di romanzo saggio della filosofa Michela Marzano, si intitola L'amore è tutto e tutto ciò che so dell'amore, pubblicato da UTET, era uscito più o meno un anno fa. È un libro veramente intelligente, arguto, ma scritto in modo assolutamente semplice. All'inizio di ogni capitolo c'è, come dire, una mini storia, un taglio narrativo, autobiografico, lei che racconta alcune cose di sé. E poi ci sono delle riflessioni che sono a metà fra la filosofia e anche la psicologia. Quindi sono veramente riflessioni profonde, serie sull'amore, di cui mi fa piacere parlare anche nel giorno di San Valentino. Marta, ti farei sentire un estratto dell'intervista che realizzai qualche tempo fa con Michela Marzano, che naturalmente si trova in versione integrale su radio24.it. Non penso di essere la sola ad essere cresciuta con il mito del principe azzurro, per poi rendersi conto che il principe azzurro non esiste, però questo è uno dei tanti luoghi comuni che secondo me inquinano proprio le nostre relazioni affettive, perché con l'idea che un giorno incontreremo colui o colei che sarà capace di colmarci completamente, di renderci felici, talvolta passiamo accanto a quello che invece è l'amore, che è appunto la condivisione dell'oggi nell'accettazione di ciò che si è, e quindi poi la scoperta della libertà di essere se stessi. Quanto nell'incontro d'amore la maggior parte delle persone finisce per rinunciare a una parte di sé? Intendo dire che è necessario essere molto indipendenti, molto autonomi per condividere e non essere schiacciati da un rapporto. Prima dicevo, grazie all'amore si diventa ancora più liberi, cioè liberi di essere se stessi. Il problema è che molto spesso nelle relazioni che si vivono è esattamente il contrario, cioè invece di essere se stessi liberi di esserli, cioè uscire dalla gabbia del giudizio altrui, ci infiliamo all'interno di una gabbia perché dipendiamo totalmente dallo sguardo altrui. Tante volte si immagina che si debba meritare l'amore. Questa è un'altra cosa che io cerco un pochino di decostruire. Tante volte più facciamo di tutto per meritarlo, più arriva il momento in cui ci rendiamo conto che abbiamo perso non solo l'altro, ma anche noi stessi. Ora, nel momento in cui si rinuncia a un pezzo di sé sperando che in questo modo l'altro ci stia accanto, in realtà è l'inizio della fine. Quindi c'è bisogno di autonomia, nel senso che per poter accedere all'amore, secondo me, è necessario sapere che l'altro non sarà mai il nostro tutto, l'altro non potrà mai darci tutto, esattamente come noi non potremo mai essere il tutto e dare il tutto all'altro. Il che vuol dire sapere che nell'amore non si tratta di colmare un vuoto, ma si tratta probabilmente di prendersi per mano e cercare di attraversarlo. Beh, Alessandra, io condivido tutto quello che ha detto Michela Marzano, mi piace molto e mi sa che andrò a leggermi questo saggio che ci hai consigliato. Altre segnalazioni in fatto di amore, sentimenti, poi chiudiamo questo capitolo San Valentino, perché voglio chiederti invece qualcosa di quell'altro santo che non esiste? Allora, ho pensato anche a un San Valentino gay friendly, diciamo così, e il libro di cui si sta parlando in assoluto di più è Il giorno più felice della mia vita, scritto da Sebastiano Mauri, pubblicato da Rizzoli. È un libro sul diritto al matrimonio per le coppie gay, è raccontato anche in modo ironico, nel senso che ci sono delle parti autobiografiche, poi c'è anche una parte di spiegazione, ve ne leggo giusto qualche riga per capire di che si tratta. Sebastiano Mauri scrive: quando ho iniziato ad amare gli uomini, fantasticavo di trovare il compagno della mia vita, di costruire un percorso insieme, possibilmente lungo quanto il resto delle nostre esistenze. Ma sapevo che, per una coppia di persone dello stesso sesso, il matrimonio non era un'opzione. Lo Stato ha già scelto per te. E poi, dopo qualche pagina, scrive: quando si pensa ad una coppia formata da una donna e da un uomo, si pensa a sentimenti, progetti, visite da Ikea, un picnic lungo il fiume, cenette romantiche. Quando si pensa ad una coppia di uomini o di donne, si pensa al sesso. Insomma, sono riflessioni belle e profonde di Sebastiano Mauri, che è uno scrittore che avevamo già conosciuto con Goditi il problema qualche anno fa, un romanzo sempre autobiografico sulle sue vicende personali, veramente molto molto ironico e divertente. Beh, mi era molto piaciuto Goditi il problema, ma mi dicevi, Alessandra, che c'è anche una sorta di filone interessante, curioso. Sì, è una nuova tendenza, la cosiddetta, nei libri, la cosiddetta gay romance, cioè libri romantici che parlano di coppie gay. Leader in questo settore è l'Harlequin Mondadori, quella che pubblicava un tempo, insomma, gli Harmony, e li sta pubblicando attraverso gli ebook. Poi, insomma, sta testando un po' il mercato, se andrà così bene come sta iniziando ad andare sugli ebook, allora ora pubblicherà anche in cartaceo. Beh, molto divertente. Poi credo che, insomma, siano libri romantici tout court e quindi li possano leggere più o meno tutti, no? Sì, assolutamente, sono scritti poi tra l'altro sia da uomini che da donne, quindi. Beh, mi piace molto. Visto che stiamo parlando di coppie gay, abbiamo parlato anche di matrimonio, qui a Sanremo c'è stato lo sketch di Luca e Paolo che si sono finti coppia in procinto di sposarsi. E allora, Alessandra, entriamo un po' in tema sanremese, perché c'è qualcosa che lega Sanremo ai libri? Non lo so, lo chiedo a te. Alessandra, questa è una vecchia sigla di Sanremo, però almeno questa, anche se tu non sei particolarmente preparata sul festival, la conosci. Sì, questa sulle cose vintage sono preparata. Allora, c'è un filo tra il Festival di Sanremo e i libri? Si può trovare qualcosa che li accomuni? Assolutamente, vabbè, ci sono tantissimi libri sul festival, ma quelli, come dire, li lasciamo da parte. Io ho ritrovato un po' di romanzi che hanno per protagonista o per sfondo il Festival di Sanremo. Uno che mi era piaciuto molto era Infinita notte, scritto da Alessandro Zaccuri, pubblicato da Mondadori parecchi anni fa, insomma credo il 2009. Poi c'è stato Il tuo amico Pupo, lo chiamo tuo amico perché, insomma, tu con i cantanti hai un rapporto molto più diretto, che però si era firmato col suo vero nome Enzo Ghinazzi nel 2012, e per Rizzoli aveva pubblicato La Confessione. Anche qui era un romanzo, in realtà un thriller, un omicidio che aveva per sfondo Sanremo, così come c'è un omicidio in Nessuno, nemmeno tu, di Lucia Tilde Ingrosso, pubblicato da Kowalski, anche in questo caso un delitto, anche in questo caso da sfondo c'è il Festival di Sanremo. Ah, mi piacciono moltissimo questi romanzi. Adesso l'unico brivido, però, questa sera speriamo che sia l'attesa del vincitore, che non ci siano thriller da queste parti. No, non ce ne dovranno essere. Alessandra, grazie per essere stata con noi. La prossima settimana sarò con te in studio a Milano. Ti chiedo solo di darci l'appuntamento con Il Cacciatore di Libri, come al solito. E vabbè, ma tutti stasera vedrete Sanremo, cosa volete che vi dica? Alle 22 su Radio 24 ci sarà Il Cacciatore di Libri con un bellissimo romanzo che si intitola La Tentazione di Essere Felici, però so che vedrete Sanremo, quindi insomma scaricatevelo in podcast o sul sito radio24.it e potete seguirmi su Twitter come Ale Teddina. E con noi la prossima settimana ancora al Sabato del Villaggio, grazie Alessandra. Grazie a te Marta, ciao. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme con questa puntata speciale del Sabato del Villaggio, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, libri e consumi. Siamo a Sanremo per l'appuntamento di oggi, ma come sempre a quest'ora ci colleghiamo con Milano con la nostra esperta di consumi e tendenze, Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio dunque da Sanremo, Maria Luisa. Buon pomeriggio Marta, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Maria Luisa, di cosa ci occupiamo oggi? Perché io sono in viaggio e so che anche tu in un certo senso. Sì, perché oggi Marta parliamo proprio di nuove tendenze nel turismo, nelle vacanze, i posti da vedere assolutamente e i modi per farlo a seconda del proprio stile di vita, perché lo sappiamo ormai anche i viaggi seguono la tendenza della personalizzazione, nuove mete dunque, ma anche nuovi approcci al turismo. Ne parliamo con Cristina Tasselli, che è il direttore della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che si chiude proprio oggi a Milano. Buon pomeriggio Cristina. Buon pomeriggio a tutti. Sì, oggi è di fatto l'ultimo giorno. Esatto, allora che cosa si è visto in questi giorni alla BIT? Quali sono le tendenze del momento in fatto di viaggi e vacanze? Allora, innanzitutto questo è stato un anno di una BIT inedita, in preparazione anche di Expo, quindi i padiglioni dedicati all'Italia, il 9 e l'11, hanno segnato il più 60%, erano presenti tanti modi diversi di vivere l'Italia, quindi avevamo la parte lusso, avevamo la parte dedicata a arte, cultura e enogastronomia, l'area eventi e poi in assoluto nella giornata di oggi si è aperta Destination Sport, quindi un'area dove si possono avere suggerimenti tecnici, incontrare gli operatori che offrono dei pacchetti turistici, delle offerte per il turismo outdoor. Ecco perché, Cristina, confermacelo, si parla molto di queste vacanze a tema sportivo, quindi per i runners, per i bikers, per i climbers, a seconda di quale sia la propria passione sportiva, è così? È così, nel senso che non c'è di fatto in Italia in particolare, perché nei paesi esteri invece è molto più diffusa la cosa, non c'è una fiera proprio dedicata a questo turismo, che vale per la precisazione 12 milioni di persone in Italia e l'8,5% degli stranieri che vengono in Italia per fare una vacanza di questo tipo. Tra l'altro io volevo segnalare che in edicola c'è ancora il numero di autospendit sul viaggiare deluxe, nel quale insomma si parla di questo mercato del turismo di lusso che non conosce crisi. L'Italia al primo posto tra le mete del turismo, dice il nostro autospendit. Che periodo è per l'Italia? Se parliamo di turismo di lusso, dobbiamo dire che il turismo di lusso di fatto è quello che ha continuato a crescere anche nei momenti di contrazione, perché è passato da rappresentare il 17% nel 2005 al 21% di oggi, in un momento in cui c'è stata la contrazione del mercato turistico in generale, quindi è una grande opportunità per l'Italia. L'Italia piace non solo agli italiani ma anche e soprattutto agli stranieri dei mercati emergenti come la Cina, come il Brasile, e quindi è un segmento su cui puntare. Parliamo di città, di mete nuove da scoprire, possiamo dare qualche indicazione? Guardi, più che mete nuove volevo segnalare una tendenza per quanto riguarda i viaggi all'estero, cioè i viaggi outgoing. Gli italiani hanno sempre amato le mete come Cuba o i Caraibi, adesso invece si sta rilevando un interesse per tutta la parte dell'Asia, quindi una crescita del turismo verso questi paesi dove forse c'è meno divertimento ma più cura dell'aspetto culturale, più servizio e anche più riposo da quello che è la vita frenetica di tutti i giorni. Ecco, si parla tanto di eco resorts. Esatto, si parla tanto di eco resort, diciamo che l'eco resort ormai lo trovi sia nella parte delle Maldive ma in diversi posti dell'Asia, anche un modo per vivere direttamente a contatto con la natura, no? E recuperare un po' il nostro tempo. Quindi non necessariamente costosi. Non necessariamente costosi, dipende da chiaramente quello che uno cerca, però diciamo che oggi ci sono diverse opportunità per vivere una vacanza. Ecco, c'è anche un lusso low cost, definiamolo così, e ne abbiamo parlato in questi giorni ed è una nuova tendenza, anche questa. Marta. Molto bello che abbia menzionato l'Asia, visto che io e te già nelle scorse puntate avevamo deciso di comprarci un biglietto per la Corea e quindi eravamo già preparate sotto questo punto di vista. Sì. Grazie, grazie a Cristina Tasselli per essere stata con noi. Grazie a voi. Beh, molto bello parlare di turismo, noi poi siamo diventate bravissime a risparmiare qualche soldino appunto per il nostro biglietto aereo che abbiamo deciso di comprare quest'anno per la meta imperdibile che è la Corea, appunto abbiamo scoperto che in effetti sull'Asia siamo preparatissime, però per come sempre mettere via qualche soldino in più abbiamo le nostre strategie anticrisi. Maria Luisa, questa settimana, beh dai, il tema è un po' obbligato. Allora, partiamo dall'inizio. Strategia anticrisi uguale risparmio, lo abbiamo detto tante volte in questo spazio. Allora, a proposito di risparmio e conti personali, per celebrare San Valentino, eccola qui la citazione obbligata a nostro modo, però Marta, abbiamo deciso di raccontare innanzitutto una ricerca che svela quanto si menta al partner, pensiamo un po', sulle proprie finanze, sugli acquisti personali e i risparmi, e poi siamo andate anche a caccia di qualche dritta unconventional, per così dire, sulla ricorrenza. Lo abbiamo fatto come sempre insieme a Cristina Lazzati, la direttrice di Markup Egidio Week. Ciao Cristina. Buon pomeriggio a tutti. Allora, eccoci qui. Che cosa ci racconta questa ricerca? Allora, diciamo che effettivamente sulle finanze si tende a essere un pochino risparmiosi, soprattutto di notizie. Nel senso che il 31% degli europei, secondo questa ricerca, preferisce mantenere qualche segreto e magari tacere pure alla propria metà quanto guadagna esattamente. Non abbiamo ancora ben capito se perché si tende a gonfiare un po' il proprio stipendio, perché pare che la tendenza sia soprattutto tra i più giovani, o invece ridurlo un po', e questa invece è una tendenza che riguarda quelli di una certa età. Gli italiani sono ancora più omertosi della media europea, perché ben il 34% dice che, soprattutto se non è in una relazione stabile, preferisce non rilasciare grandi notizie sullo stato delle proprie finanze. La media però, come dire, per fortuna scende un po' quando si parla invece di coppie stabili, perché solo il 16% degli italiani dichiara di aver nascosto la spesuccia fatta alle spalle del proprio compagno, compagna, marito, moglie. E quindi diciamo così che se gli over 55, come dire, se ne sono fatto una ragione, dicono che in fondo qualche segreto e qualche spesa magari si può occultare, sempre loro sono quelli che però di fatto dichiarano di non farne granché, di condividere quasi tutto con i propri partner. Tu Marta sei omertosa sui tuoi acquisti pazzi? Sempre, sempre, ma li nascondo anche a me stessa, mento anche con me stessa, nascondo gli scontrini per non rivederli io. Ma a proposito di spese pazze, spese anche meno pazze per San Valentino, adesso mi avete incuriosito. No, No, a questo punto bisogna assolutamente risparmiare, perché appunto se c'è, già c'è stata la spesa per San Valentino che si è un po' nascosta dal partner, quindi si è fatta la fuga dal negozio alla Perla per avere la lingerie ultima moda, allora a questo punto cerchiamo di spendere il meno possibile e magari in maniera anche un po' intelligente. C'è un'attività molto carina che si chiama Innamorati del Pianeta, no, le fonti fossili, che di fatto, scattando una foto romantica di San Valentino insieme al tuo compagno, alla tua compagna, eccetera, se se la si mette sul profilo di Facebook, si aderisce quindi a questa raccolta, non tanto di firme quanto proprio a questa campagna in cui Innamorati del Pianeta significa innamorati anche davanti alla macchina fotografica, e quindi scatta il momento selfie. Oppure c'è un'app di OBS molto carina dove se si mandano un selfie con un bacio, mandando il bacio al mondo, oppure con una foto di noi stessi che baciamo il nostro compagno, a questo punto si può OBS donerà un euro alla campagna Alle cose cambiano, che tra l'altro è una campagna molto, molto bella, perché si rivolge agli adolescenti, una campagna a livello internazionale che aiuta gli adolescenti a superare i momenti di bullismo, soprattutto rivolta a coloro che comunque cominciano a riconoscere la propria omosessualità e vivono momenti difficili. Quindi una campagna di sostegno ai giovani, e in particolare quelli che soffrono per la diversity. Risparmiare e divertirsi e basta, senza, come dire, magari perdendo un pochino più la testa, basta con scaricarsi l'Instagram, che di fatto è un Instagram dedicato all'amore, dove si possono montare video, foto e regalare al proprio partner un piccolo video mettendo insieme proprio tutti i momenti che si sono vissuti insieme durante l'anno. E infine, anche se siete stonati, avete Perfect Vocal Free, un'altra app dove potete registrare una serenata, e grazie a un sistema molto semplice di sintetizzatori, alla fine anche chi ha una voce pessima potrà avere un risultato decente e spedire alla propria amata la propria serenata. Perfettamente in linea con Sanremo, dunque, Marta. Sì, devo dire, mi piace molto questo, anche se siete sposati, perché anche voi sposati dovete ricordarvi di essere un po' romantici, magari cantando anche le canzoni in Sanremo, visto che qui parlavano praticamente tutte d'amore. Ecco, ricordiamo anche che oggi si celebra in tutto il mondo One Billion Rising, l'evento planetario, il mega flash mob contro la violenza sulle donne, che si tiene in 207 nazioni del mondo, più di 100 le città italiane coinvolte, in alcune c'è già stato, in altre in corso. A Milano, per esempio, in Piazza Duomo l'appuntamento è alle 18, un bel modo per festeggiare, a mio avviso, San Valentino. Cristina, concordi? Concordo, e poi spezzo una lancia invece ai non sposati, ai non fidanzati, perché comunque domenica è il vostro momento, e vi ricordo San Faustino. Beh, da bresciana devo dire che San Faustino ha sempre una motivazione valida, ecco, Marta. E poi domani a San Faustino si celebra anche il ritorno di essere a bere come tutte le domeniche. A che ora, Maria Luisa? Domani alle 15, come sempre. La prossima settimana io sono a Milano, non ti abbandono, lascerò Sanremo domani. Ringrazio te e ringrazio anche Cristina Lazzati, perché così a distanza la sento ancora più lontana, però ci ritroviamo sabato prossimo. Assolutamente, grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Ciao Marta, un saluto a tutti, un saluto a Sanremo, un abbraccio. Il sabato del villaggio. Concludiamo la seconda ora di questo speciale Sabato del Villaggio in onda da Sanremo, tornando a parlare di canzoni, due testi che parlano di temi importanti. Io sono una finestra velata di vapore, in questa notte gelida, deserta ed incolore, rispecchia la finestra, la carne, le emozioni, di me che sono specchio delle contraddizioni. Io sono una finestra parla delle nostre vite, identità multiformi, non solo sessuali. Con Grazia Di Michele, sul palco Mauro Coruzzi, Platinette. Lo abbiamo incontrato qui al Teatro Ariston, appena uscito dalle prove. Mi spiace moltissimo non sentirmi all'altezza, però mi sento alla grassezza, no, all'ampiezza. No, davvero conta, è la chiusura di un ciclo, perché sono 40 anni di lavoro nel mondo della musica, e ho la vaga idea che questo sia anche l'ultimo. Ho detto senza celebrazioni premature, senza lapidi per ora, ti è. Però se si chiude così, questo lavoro è stato meraviglioso, un percorso che parte dalla critica musicale, dalla radio privata, la prima in Italia, chiudendosi con Sanremo. Cosa poteva accadermi di meglio, no? Con una canzone così. Io non so mai chi sono io, sono per la gente, coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo, comunque essere umano. Una canzone con un testo importante, con una messa in scena anche importante, con queste immagini che evocano molto. Com'è portare sul palco questa canzone? Guarda, l'idea di una battaglia, per quanto l'ambito è quello di un festival della canzone, ricordiamocelo sempre, non è un'operazione a cuore aperto, non dico la possibilità di riflettere su quelle che sono le esistenze diverse dalle nostre, perché tutti noi abbiamo una valanga, immagino, di problemi, è una specie di piramide di problematiche, e forse non conosciamo abbastanza quelle altrui. Non che sia indispensabile saperlo, ma quando le conosciamo magari possiamo guardare quelle persone là che prima ritenevamo diffidabili o dalle quali avere comunque una specie di distacco, con una certa familiarità e comprendere che non sono poi molto diversi dagli eventuali nostri figli, che possono avere, non dico una doppia vita, ma che molto spesso nascondono la loro essenza, la loro esistenza reale, anche ai genitori. E a quelli che hanno montato polemiche preventive, successive, cosa dici? No, che la polemica è un pepe necessario a una manifestazione come questa, ma l'abbinamento che mi riguarda con Cita Wurst è un abbinamento del tutto improprio. Se non fosse per la barba che io ho per 24 ore, ma che è un accessorio che io ho portato per tanti anni e che poi a un certo punto sparirà durante questa manifestazione. Poi se il paese o no, come dicono, sia pronto a reggere due persone con orientamenti sessuali ben dichiarati, io credo di sì, perché non c'è grande sovrabbondanza che di questo in più. Finché sei però un pagliaccio è tutto accettabile, quando cominci a pretendere di avere qualche opinione e di dirla, l'accettabile diventa un po' difficoltoso. Speriamo non sia questo il caso. Che giorno è? Ti stai annoiando di te? Che parli cinicamente, niente vale niente. Ti vedo ma sei assente, quasi trasparente. Dimmi che giorno è. Ancora qui a Sanremo, qui al Teatro Ariston, un messaggio di forza, di rinascita, che anche un po' a sorpresa ha convinto, oltre al pubblico, i critici. Parliamo di Che giorno è? Marco Masini. È un Sanremo preparato da un ex radiofonico che è Carlo Conti, quindi sicuramente come tutti i radiofonici Carlo ha una preparazione nello scegliere e nel trovare l'emozione all'interno di una canzone superiore agli altri. Questa è la cosa fondamentale, questo mi ha spinto anche a voler partecipare con ancora più entusiasmo. Immagino che i tuoi cassetti siano pieni di canzoni, come si sceglie quella giusta per il festival? Come le donne e come l'amore, cioè... lo senti, lo avverti a primo impatto. Per me questa è una canzone che mi ha dato un impatto emotivo all'inizio ed è il momento più bello anche del nostro mestiere, perché il momento più bello non è quando monti su un palco, ma quando sei a casa con una penna e con un pianoforte e nasce qualcosa. Quello è il momento più emozionante che possa esistere nella vita di un artista e nella vita di un uomo anche, perché l'emozione credo che sia il motore più forte e più potente della vita di un uomo. È una canzone in cui si vive, si cade, però ci si rialza e si vive e tutti abbiamo esultato su questo smettila di smettere, che ormai abbiamo incoronato tutti come il verso più incisivo del festival. Te l'aspettavi? Ma devo dire la verità, no, io non mi aspetto mai niente, io sento un'emozione che arriva e poi spero che gli altri la possano condividere, o in un verso, o in un momento musicale, o in una sonorità, o in un'espressione, o un'interpretazione. La musica è fatta di tante cose, no? La torta è fatta di tanti ingredienti, se poi c'è anche una sorta di identificazione da parte di tutti nell'apprezzare una certa cosa o non nell'apprezzare, perché poi alla fine certe canzoni sono nate, e i grandi successi sono nati proprio da un rifiuto generale che poi invece con forza e con energia si è trasformato in gradimento nel tempo. Quindi tutto questo fa parte della musica, fa parte del potere della musica stessa, e spero ovviamente che anche quest'anno ci possa essere un grande effetto musica in questo Sanremo. Forza, energia, c'è negli inediti in cronologia, c'è mi sembra di sentire uno spirito assolutamente di grande energia. Ma direi che questo album racchiude proprio, senza maschere, senza vergogna, i momenti più belli, i momenti anche più brutti, perché molte canzoni hanno anche segnato grandi momenti di difficoltà della mia carriera. Io ho vissuto degli alti e bassi e sto vivendo degli alti e bassi pazzeschi, e credo che la felicità stia proprio nel cercare di raggiungere magari il gradino che ci ha fatto cadere il disco precedente, no? Quindi ritrovare il modo di riraggiungerlo, di ritrovarsi lì ancora. Questa è un po' la felicità della vita, perché se noi raggiungessimo un podio e non cadessimo mai, non avremmo più la forza di doverlo raggiungere di nuovo, e la voglia più che altro. Quindi la fame credo che sia importantissima per chi fa questo mestiere. Io ho avuto la fortuna di essere in qualche maniera vittima di tanti miei sbagli, di qualche percorso forse un po' troppo ripido, un po' troppo pieno di spine, che ho messo io, che hanno messo gli altri, che ha messo la vita stessa. Quindi credo che andare alla ricerca sempre di un percorso nuovo sia proprio la consapevolezza che dalla fragilità e dalla forza e dalla paura può nascere una forza nuova e un'energia nuova. Ricominciare con la prima volta, dimmi che adesso ti importa, e smettila di smettere, vivere d'amarsi, vivere, lasciarsi vivere, riconquistare.